programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. Insomma, mi stavo distraendo, scusate, con l'ospite così piacevole che è qui in studio oggi. Ma che cos'è che ogni volta ci conferma che non ci sono più le mezze stagioni? Ogni volta ve ne racconto una. Per esempio, ci sono dei momenti, no, che sono legati anche a dei riti, e ogni volta che arrivano quei momenti ci sono quei riti, e così si scandisce il tempo e ci sono le mezze stagioni. Però perché non ci sono più invece le mezze stagioni? Anche perché il panettone, d'ora in poi specialità milanese, grande tradizione, si potrà mangiare tutto l'anno. Dico, come quando le ciliegie te le fanno trovare a gennaio nel piatto, insomma, sembra una cosa così, no? E invece pensate che il primo sponsor di questa cosa del panettone tutto l'anno, 365 giorni all'anno, è la sindaca di Milano Letizia Moratti, che ha detto: ah sì, in città e ovunque imperversano i muffin con il brunch, no? Questi dolci americani, anglosassoni. Noi invece no, stipuliamo un accordo con gli albergatori, con i ristoratori, eccetera, e diffondiamo tutto l'anno, anche con i turisti, la tradizione del panettone. Che ne pensate? Non so cosa ne pensate voi, ma certamente non ci sono più le mezze stagioni. Ma ritorniamo a noi, questa è la notizia della settimana, come è coerente, insomma, con questo programma, perché ogni volta il sabato vi chiedo di fare un bilancio insieme di tutti i tantissimi fatti della settimana, quindi con libertà potete esprimere le vostre opinioni e anche fare la vostra scelta. Sono talmente tanti, quelle più importanti, meno importanti, non facciamo troppe gerarchie, diciamo, ognuno scelga la sua, e il numero verde è sempre quello a vostra disposizione: 800 24 00 24. Dovreste conoscerlo a memoria da anni. 800 24 00 24. Ma metti che conquistiamo un ascoltatore, un'ascoltatrice proprio oggi, qui a Non ci sono più le mezze stagioni. E poi, se conoscete la trasmissione, sapete anche che io mi accompagno sempre con un personaggio che chiamo il mio opinionista estemporaneo, visto che gli chiedo in quel giorno, oggi, di sabato, di esprimere le sue opinioni sui fatti della settimana. E oggi, signore e signori, abbiamo qui Ricky Gianco. Buongiorno, non me l'aspettavo, una presentazione con un rullo di tamburi. Ah, la batteria in realtà l'ha suonata lui, l'avete sentito il rullo di tamburi, essendo musicista, cantautore, famosissimo Ricky Gianco, che non hai bisogno di presentazioni. Ti ringrazio. E si presenta, tra l'altro, Ricky è stato anche nostro compagno d'avventura qui a Radio 24, no? Con un suo programma. Il nuovo CD di Ricky si chiama Di Santa Ragione. Ci sono due guantoni, picchiaforte, Ricky Gianco? Beh, quei guantoni, l'idea di mettere i guantoni e di tentare di suonare la chitarra, cosa impossibile con i guantoni, è nata proprio per chiarire il titolo, subito, per mettere le mani avanti. Cioè, non si tratta... Sì, metaforicamente la vita è fatta di dare e prendere, spesso più prendere, ma nel senso di pigliarle, spesso, che non però, ecco, però è molto ironica la cosa, quindi con questi guantoni. E qua in questo tuo CD, dove suoni come sempre magistralmente la chitarra, ci sono degli inediti, ma poi ci sono anche brani di tuoi vecchi amici, alcuni che non ci sono neanche più, no, come Tenco, purtroppo, per esempio, no. Con Quando, o Sergio Endrigo. Sì, ma è la prima volta che io affronto un discorso del genere. Ho voluto cominciare con cinque amici. Purtroppo, come dicevi tu, che la maggior parte di quelli non ci sono più. Ogni tanto con quello vivo di questi cinque Paoli ci sentiamo. Non più tardi di un paio di giorni fa l'ho chiamato per dire: hai sentito cosa è successo a Varese con la tua gatta? Ah, e lui non sapeva, ha detto, ma ha detto, ne parliamo, non sì, si sì, capisce più niente. Quindi non era tanto, magari lusingato per certi versi, ma per altri, penso, conoscendo un po' Gino Paoli, ma non credo, no, che non fosse proprio contento, non credo, di questa non credo proprio conoscendolo. Per cui c'è Paoli, e vabbè, poi ho fatto un pezzo di Tenco, Quando, ho fatto Sassi di Gino, appunto, ho fatto Jordi di Fabrizio De André, ho fatto di Piero Ciampi Io e te Maria, e poi di Sergio Endrigo Vi avrò letto 34. È tanto bella. Che... Senti, però vogliamo sentire invece Né sconti né saldi, che è un inedito che ti ha scritto Carlotto. Sì, che abbiamo scritto, Massimo, sì, Carlotto, con Massimo Carlotto, che è un po' un'analisi di un po' un film, vedere da quando siamo partiti. Molto d'attualità, devo dire. Allora, prima di farlo sentire proprio qualche secondo questo brano, Ricky Gianco, dimmi qual è una delle notizie, solo il titolo, poi dopo approfondiamo, che ti ha colpito questa settimana, di cui poi ti piacerebbe parlare. Sicuramente lo sfacelo che sta succedendo, Dio, non è di questa settimana purtroppo, ma continua a essere in Golfo del Messico. La Marea Nera. Il tappo, speriamo nel tappo, questo tappo. Speriamo nel tappo, ma comunque il danno è fatto, il danno enorme. È fatto, è gravissimo, continua, ed è una cosa veramente impressionante. Poi io sono un animalista, io amo tutti gli animali e non uccido neanche gli insetti, a parte le zanzare, lo dico qualche volta. Per cui io soffro l'idea, non posso neanche vedere in televisione. Tantissimi animali sono morti, sono coperti di petrolio, un disastro ambientale enorme. Tra l'altro proprio ieri Obama... diceva il tappo sta funzionando, non siamo terribilmente ottimisti, aspettiamo di vedere come procedono le cose. Poi faceva una critica giustissima, diceva la British Petroleum, che è un po' la responsabile di tutto questo, la proprietaria di questa piattaforma che è andata a fondo, dice la British Petroleum fa i conti sugli spiccioli che deve dare per risarcire tutti gli abitanti della zona del Golfo del Messico, però continua a distribuire miliardi di dividendi agli azionisti, no? Per dire come funzionano queste cose. Ma vogliamo sentire allora Né sconti né saldi di Ricky Gianco. I sabati ci siamo persi di vista, noi cercavamo la felicità ed era lunga la di cose da fare e rivoltare, ma poi è finita la festa e voi eravate già pensionati e senza sogni arredavate il salotto come nei vecchi suonati. Nessuno ha chiesto, parlato di coerenza, ma vendersi che brutta caduta di stile e indecenza. Vendersi che indecenza, caro Ricky Gianco, però mi sembra una cosa abbastanza comune ormai. Da sempre tempo. Di più. Tra l'altro parlavi di pensionati e qui leggevo dal Corriere.it di oggi dirigenti in fuga per la pensione, perché adesso dai presidi ai questori in pochi giorni sono state presentate 1500 domande per evitare i tagli della manovra che cominceranno a colpire soprattutto nel pubblico impiego. Però prima di tutto, intanto ricordo alle ascoltatrici e ascoltatori, come opinionista estemporaneo oggi c'è Ricky Gianco, così ogni volta si cambia un po' punto di vista, angolazione. È bello sapere da un personaggio diverso, donna, uomo, dagli ambiti più svariati, che cosa ne pensa dell'attualità, perché non credo che ci sia qualcuno che non abbia nessuna idea su quello che succede, soprattutto insomma una persona che fa arte o che fa un lavoro comunque artistico, intellettuale, insomma. Io credo che chiunque, anche chi lava i motori, insomma, abbia una sua opinione sulle cose. 800 24 00 24, ogni lavoro è dignitoso, ogni lavoro richiede delle capacità. Qual è la notizia che vi ha colpito in questi giorni? E a proposito di punti di vista differenti, sentiamo anche il nostro punto di vista, l'angolazione, cioè il punto di vista da un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Puntando il telescopio verso la Terra, come ogni settimana quassù da Marte succede, si individua finalmente una buona notizia. Nella penisola italica donne e uomini godranno finalmente nel mondo del lavoro di un'unica parità raggiunta, un unico elemento di parità e di portata però epocale. Nel pubblico impiego tutti e tutte andranno a casa non prima dei 65 anni di età. A parità di ruolo, si sa, nel mondo del lavoro le donne guadagnano meno. Poche mosche bianche femminili arrivano a ruoli dirigenziali, sono poi le donne, insieme ai giovani, le balde protagoniste del precariato. E quando staccano, dopo il lavoro fuori casa, eccole indomite, prontamente dedite alle incombenze domestiche, alla cura prima dei figli, poi dei nipoti, indi degli affetti anziani. Ma chi è mai Wonder Woman al loro confronto? E ora, pur dispari nei diritti, le donne sono finalmente pari agli uomini nel dovere di andare in pensione più tardi. Dunque, per le donne del pubblico impiego, altri 5 fulgidi anni di doppio lavoro in casa e fuori casa. Ma com'è che nessuno, proprio a nessuno è venuto ancora in mente di elevare contestualmente all'età pensionabile delle donne anche il contributo fattivo degli uomini nelle incombenze casalinghe e nella cura dei familiari? Cosa c'è di strano? Cosa c'è di strano? Appunto, come volevasi dimostrare, non c'è nulla di strano, se nessuno se l'è fatto venire in mente, ma in questi momenti di sacrifici e di crisi nera, nera come la Maria Nera, c'è chi non si scoraggia e affronta la congiuntura economica negativa con grande efficacia. La mafia non si perde mai d'animo e non va mai in crisi. Il giro d'affari dell'ecomafia in Italia, cioè dei traffici illeciti di rifiuti, è di 20 miliardi e mezzo di euro, cioè vale a dire poco meno dell'ultima manovra, una cifra che lievita al ritmo di 78 reati al giorno, più di 3 reati ogni ora. E sentite un po' che incassi ci sono. Ma niente paura, anche il paese rifiuta l'immobilismo, il paese cambia, si evolve, si svecchia ed ecco il nuovo inno italiano suonato in anteprima assoluta a Varese per celebrare il 2 giugno. C'era una volta una gatta che aveva una macchia nera sul muso e una vecchia soffitta vicino al mare con una finestra a un passo dal cielo blu. Ecco, Gino Paoli, Novello, Mameli, quindi, nonostante tuttavia queste iniziative volte a guardare avanti, a sollevarsi dalle zavorre, soprattutto del passato, restano i timori, le paure. E allora ecco l'invenzione delle invenzioni, la pillola che estingue ansie e paure, una ricerca pubblicata questa settimana su Science, gettando queste paure per sempre nel dimenticatoio. E così si potrebbero buttare, pensate, alle spalle la paura della crisi che permane, anche se il PIL si alza, di Saviano, la paura di Saviano, che come spiega con cognizione di causa il calciatore Borriello guadagna fama e soldi dicendo cose scomode anziché tirare come lui calcia un pallone. Paura della Maria Nera che ci fa sperare solo in un tappo come metafora della pezza con cui si tappa la falla. La paura per Pirlo che si è preso una distrazione al polpaccio sinistro, mai distrarsi, diceva la nonna. E poi l'addio alla frittura di Paranza dal 1 giugno, l'avete sentito? Oh, finalmente una bella pillola per buttarsi tutte queste ansie, queste paure alle spalle e poter dire con sollievo una volta per tutte. Niente paura, niente paura, niente paura, ci pensa la vita, mi hanno detto così. Niente paura, niente paura, niente paura, si vede la luna perfino da qui. Ritorniamo con i piedi per terra, ritorniamo con Ricky Gianco che è venuto qui a trovarmi in studio. E Ricky, mi dicevi che quindi la notizia per te della settimana è questa benedetta Maria Nera che veramente si espande di settimana in settimana. Ora si diceva, si spera come in un totem, in questo tappo che dovrebbe risucchiare il tutto. E... sì, comunque il danno è fatto e continua a esserci, come dicevamo prima. E poi oltre alla mia sensibilità nei confronti degli animali e alle mie scelte di vita, c'è anche il fatto che non credo che, perché l'alimentazione, lì colpiscono il mare, i pesci. Ah certo, è tutto l'ecosistema. Però è tutto un ecosistema che viene coinvolto, per cui non so se sarà solo il fritto misto che mancherà dalle tavole. La paranza, forse ci sarà qualcos'altro. Temo proprio di sì, infatti Obama è nerissimo, non solo nel senso che qualcuno aveva osservato già da tempo, insomma, in tutti i sensi giustamente per questi danni enormi che si protrarranno per chissà quante decine d'anni. Cominciamo però a sentire anche le vostre opinioni, le vostre notizie al numero verde 800 24 00 24. C'è Loretta da Napoli. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. Grazie. Loretta. Okay. Io volevo dire una semplice opinione appunto sulla Maria Nera di cui stavamo parlando. Sì. Secondo me ci è rimarcato molto poco sul fatto che innanzitutto questa cosa poteva essere evitata, certo. Uno, cioè la cosa più importante, e seconda cosa, gli interventi potevano essere ma molto, molto, molto più tempestivi di così, secondo me. Il disastro ci sarebbe comunque stato, ma magari si poteva tentare di arginare con molto, molto anticipo. Mi sembra assurdo come dei professionisti abbiano potuto fare degli errori così proprio spiccioli, insomma. Rimango sempre basita di fronte a queste cose, insomma. Le cause, come dire, gli errori sono sempre messi un po', no? Sotto tra virgolette copertura, sono sempre nascosti gli errori di chi li ha fatti, cioè far pagare a chi veramente ha causato questa cosa. Però la British Petroleum deve dare i dividendi anche ai suoi azionisti, che dici Loretta? Secondo me non è un fatto di soldi, è un fatto di gli animali che li esercisce a questo punto. No, no, su questo appunto. Cioè, secondo me uno tutti noi possiamo fare qualcosa, secondo me, per la natura. Io vedo tanti, ecco, gli animalisti ci sono, ma sono sempre troppo pochi, secondo me. Dobbiamo fare tutti un nostro piccolo qualcosa per aiutare. Grazie, mondo, grazie. In cui viviamo. Io, per esempio, nel mio piccolo, se posso permettermi l'ultima cosa. Permettiti. Sì. Sì, uso sempre prodotti non testati sugli animali, che hanno il marchio CEA, cioè che significa che non soltanto non sono le materie prime non sono testate sugli animali, ma è anche il prodotto finito. Nel mio piccolo cerco di fare questo per comunque evitare una cosa brutale come può essere la vivisezione, ma la vivisezione è uno dei tanti abusi che ne facciamo sugli animali. E come si collegano, vedi, tutte le notizie. Loretta, allora scusa, approfitto di te in questo momento, abbi pazienza, per chiederti una cosa. Mi sono macchiata poco fa, prima che arrivasse Ricky Gianco, per procurargli un pennarello, la camicia con questa macchia di pennarello. Secondo te viene via poi, cioè in qualche modo... qualche modo per farla venire via questa macchina? Chiedere a Obama. In modo, Loretta, in modo ecologico, perché non so se c'è qualche solvente, in lavatrice verrà via questa cosa qua. Allora, ci sono anche solventi comunque appunto ecologici non testati sugli animali, ma bisogna avere pazienza di vedere questa lista del non testato che sta sul sito della LAV e poi andare su internet a spulciare insomma quali sono queste cose. Insomma. Vabbè, prima di mettere in lavatrice ci proverò allora. Loretta, un po' di aceto diffondo nella redazione questo odore acetoso. Grazie intanto Loretta, grazie. 800 24 0024 è il numero verde per le vostre opinioni sui fatti della settimana. Sentirei di Ricky, da questo suo ultimo album di Santa Ragione, anche un altro pezzo che mi sembra di particolare attualità, questo Coco Pro, no? Visto che c'erano questa settimana ancora i dati della disoccupazione, i dati dall'Istat, che è veramente molto alta, è arrivata a quota 8,9%, chi ne risente di più sono i giovani e le donne, giovani o attempate che siano. È una realtà sempre più drammatica, secondo me, nonostante chi pretende ottimismo e ottimismo, c'è purtroppo da aprire gli occhi e rendersi conto che è strano che insomma l'Italia sia l'isola felice in mezzo a tutta l'Europa e al mondo, che in realtà sta andando male. Forse sarebbe meglio aprire gli occhi, ma bisognerebbe anche che qualcuno ci aiutasse a aprire gli occhi e non a chiuderli. Le 7:30 un goccio di caffè e a lavorare correre, ma tutte le mattine io però lavoro non ne ho. Le 7:30 un goccio di caffè e a lavorare correre, ma tutte le mattine io però lavoro non ne ho. Col tram arrivo in centro e poi da lì mi sbatto in giro a chiedere stesse risposte tristi, sa com'è, lavoro non ce n'è. Col tram arrivo in centro e poi da lì mi sbatto in giro a chiedere stesse risposte tristi, sa com'è, lavoro non ce n'è. Lavoro non ce n'è, insomma, parla di crisi Ricky Gianco nel suo ultimo CD, non solo naturalmente, di Santa Ragione. E ritorniamo, visto che oggi fa l'opinionista estemporaneo, a commentare i fatti di questa settimana con le ascoltatrici, con gli ascoltatori. C'è Nicola, poi c'è Franco da Roma, prima Nicola da Milano. Nicola. Sì, pronto. Che di cosa si stavi occupando, Nicola, in questo momento? Eri distratto, mi sa. Attento alla distrazione di Pirlo. Birra, ah, prego, prego. Dopo pasto, diciamo, prego. Sei sobrio, Nicola? Sobrio. Benissimo. Allora parla. Stavo bevendo, sì, perché devo ancora mangiare. Stavo aspettando di essere chiamato, volevo iniziare a mangiare, ma intanto sto assaggiando. Ah, grazie della pazienza. Allora, non ti voglio più affamare, quindi parla con libertà. No, io più che altro volevo intervenire per questo è stato doloroso dell'omicidio del prelato in Turchia, non mi ricordo il nome. Padovese, Monsignor Padovese. Luigi Padovese, sì. Ma io non lo so, francamente sento sempre parlare così di un dialogo, no, tra cristiani, fra... E per carità non voglio fare un discorso razzista, premetto. Io abito a Milano, tra l'altro in via Padova, non so se sapete dov'è. Sì, sì, molto multietnica e con tutti i problemi degli ultimi mesi. Direbbe, sì. No? Però ci abito da di quasi 40 anni, quindi sono proprio nato qua. Quindi vedo, apprezzo anche molto le persone, soprattutto anche persone islamiche. Cioè Nicola, scusa. Allora, il problema è solo quello, io volevo capire, non credo, ecco, la versione ufficiale della... chiamiamo così, della follia dell'autista. Cioè, francamente, una persona che viene scelta per fare l'autista, una persona così importante, sembra strano che precisamente si giri e dispari, ecco. Sì, è stata una cosa un po' strana, l'ho accoltellato, che... sì, perché dicono che avesse già dei problemi psichici, è chiaro che non fai fare l'autista, però ancora bisogna attendere la versione ufficiale, diciamo, di questo delitto. Sempre che arrivi. In tanti altri paesi sono successi casi in cui appunto commissionari o suore, più o meno importanti, ma quasi sempre persone, diciamo, non alla ribalta, sono persone che si occupano appunto di portare il messaggio evangelico, di fare del bene così, poi precisamente vengono ammazzati. Ecco, quello è una cosa che in questo caso io comunque non credo assolutamente alla versione ufficiale, ecco, non vorrei dire che c'è stato un complotto, per carità, anche perché che senso ha complotto nei confronti di un prelato, insomma. Guarda, però tu hai sentito cosa ha detto poi il Papa, naturalmente anche diciamo per questioni eminentemente diplomatiche, che è anche giusto così, ha detto è un episodio, questo non significa che noi non continuiamo a tendere la mano ai fratelli islamici, insomma, continuare questo confronto, questo dialogo tra Chiesa Cattolica e mondo islamico. Quindi probabilmente mi dà uno schiaffo, io ti porgo per la cosa qua. Però finché, non so, uno può essere anche malmenato, vabbè, può capitare, muore lì, diciamo, scusate il termine muore perché mi è venuto così, è un po' infelice, però diciamo che Nicola, non mi sembra però, il caso, però diciamo, di, posso chiederti non, di, no. di non cucinare mentre parli al telefono, non stai cucinando. Guarda, tutto piatti freddi. Li sto solo guardando. Però anche mettere il prosciutto nel piatto richiede un po' di tramestio, diciamo. No. Va bene, Nicola, ti ringrazio per la tua telefonata e poi appunto arriverà, dovrebbe arrivare, ieri si diceva, si sta attendendo questa versione ufficiale, insomma, sulla morte di Monsignor Padovese. Andrei, tu, Ricky, volevi... No, io alla base di quello che diceva questo ascoltatore, direi che quello che noi apprendiamo è quello che la stampa ci passa. Credo che sia difficile sapere come vanno le cose, come sono state, insomma, io voglio dire che ricordo anni fa una cosa che mi ha colpito molto, che a un certo punto molta stampa parlò, tu adesso sei giornalista che mi guardi male, non picchiarmi. No, sono in attesa di sentire dove vai a parlare. A un certo punto avevano trovato questo individuo che non parlava, non ricordava chi fosse, non sapeva nulla, era un pianista eccezionale. Ah sì, questo è successo 2 o 3 anni fa. Sì, 2 o 3 anni fa, sì. Ma sono andati avanti un paio di mesi con questa storia, nessuno lo riconosceva, nessuno sapeva chi fosse, poi alla fine è venuta fuori la verità. Come questo... lo smemorato di Collegno, di dove era, mi ricordo. Cioè, questo era, non so se svizzero o tedesco, sì, sì. L'avevano riconosciuto i parenti, ma non lo volevano tra le scatole assolutamente, e non sapeva neanche suonare una nota di pianoforte, cioè è stata tutta una montatura. Che di solito avvengono però nel periodo estivo queste montature. Come la pantera che gira, quest'anno, sì, il coccodrillo, mi sembra, hanno avvistato. E qui come fai a sapere cosa? Ma lì sai, dipende anche dalle notizie che le fonti più vicine, conoscenti, testimoni, eccetera, dico, questo qui abbiamo visto, fa così. A volte, certo, bisognerebbe poi verificare sul campo, ma devo dirti la verità, ormai i giornalisti hanno sempre meno possibilità di verificare sul campo, almeno a livello di quantità di giornalisti, no? Sono perché d'accordo. Siamo nelle redazioni, è tutto così veloce, tutte concorrenza reciproca, chi mette prima la notizia, chi fa, chi dice. Diciamo che un po' ogni tanto questo dovere comunque, no? Anche deontologico di controllare, di verificare la notizia, almeno in questi casi qua, diciamo, non è stato gravissimo, si è creato un po' la leggenda, no, certo la leggenda, no, metropolitana, certo, intorno. Però insomma, quello che è successo probabilmente, magari ci sono anche dei motivi interpersonali, sì, ci sono anche dei motivi privati, certo, ma magari anche diplomatici, dico, quello che è successo in Turchia. Sentiremo magari prossima settimana, saremo notizie nuove. Invece adesso c'è Franco da Roma, sempre al numero verde 800 24 00 24, per raccontare qual è la vostra notizia della settimana. Poi da Ricky Gianco mi piacerebbe anche sapere cosa pensa di questa lettera aperta che Lino Banfi ha scritto in favore della povera Laura Antonelli, dimenticata da tutti, in povertà, in grande depressione. Il ministro Bondi che ha detto allora attueremo la legge Bacchelli, no? Che dovrebbe aiutare gli artisti che sono caduti un po' in disgrazia, però poi lei ha risposto nuovamente dicendo voglio essere dimenticata, lasciatemi la vita terrena, non mi interessa. Poi questo dopo, Ricky. Franco da Roma, dicevamo. Buonasera a tutti quanti, complimenti per la trasmissione e anche per la simpatia. Grazie Franco. Io volevo soltanto fare un commento per quanto riguarda la manovra finanziaria e per quanto essa è iniqua. Io batterei il punto soprattutto per quanto riguarda, capisco che è necessaria per tante serie di ragioni, anche per un contesto internazionale, ma si abbatte sulla categoria degli insegnanti, parlo perché sono un po' di parte in quanto mia moglie è un insegnante, si abbatte in maniera clamorosa, due volte rispetto agli altri, e dalle stime che escono fuori dai giornali la penalizzazione sarà intorno al 10%, circa 2.500 euro lordi, e perché pagano non solo per quanto riguarda i contratti già firmati, ma anche per gli scatti d'anzianità che, ricordo, sono l'unico modo per la progressione della carriera. Purtroppo non esiste ancora il concetto della meritocrazia, e posso assicurare che gli insegnanti meriterebbero meritocrazia, perché ci sono molte, come mia moglie, si alzano alle 6 di mattina fino a mezzanotte l'una per preparare i compiti in classe. No, ma credo che sia un termine proprio, forse, che sfogliando il dizionario italiano mi pare sia sparito. Poi esatto, dopo chiederemo a Valeria della Valle, magari linguista. Gli insegnanti studiano fino a 38 anni perché hanno due diplomi, due lauree, un master, tre master, scuole di specializzazione bignale, post laurea. Magari non tuttissimi, però una buona parte. Sì, però molti lo hanno. È una classe bistrattata, sono quelli che per la crisi insieme agli altri dipendenti pubblici, e sono tra i più sono meno pagati d'Europa, a parte il Portogallo e la Grecia. Questo è un punto essenziale, perché per la crescita è importante puntare sull'innovazione, sull'università, sulla creatività. E comunque, se Tremonti e la cricchia, diciamo tra virgolette, chi lo contorna, avesse attuato una politica più equa, cioè colpire le patrimoniali, chi ha di più realmente, colpire, tassare le stock option, tassare le rendite finanziarie rispetto invece al lavoro che è tassato mediamente al 33%, sono queste le misure eque, tutti lo sanno, e questo paradossalmente avviene con un governo che io, diciamo, sono di parte, un governo che non condivido, però che è stato eletto anche con i voti, tra virgolette, dei cosiddetti poveracci. Quindi sarebbe un po' più giusto fare una manovra un po' più equa rispetto a quella attuale. Grazie Franco. Ricky, ti vedo lì che ti massaggi la barba che non hai mai. Dalla preoccupazione. Ha ragione questo ascoltatore, sono d'accordo con lui, ma purtroppo c'è anche un altro aspetto che è proprio dannoso per il futuro di questo paese, e cioè la ricerca, la scuola, l'università, l'arte in generale, la cultura, sono cose che servono a far crescere, a sviluppare in futuro un paese e una generazione, sempre altre generazioni che arrivano. Se uccidi questo, uccidi praticamente il futuro di un paese. Senti, invece, passando appunto a un'altra notizia, no? Questa che riguarda Laura Antonelli, che ricordo, c'è bisogno di ricordarlo, la sua bellezza, quanto ha fatto sognare gli italiani. è stata un'icona per tanto tempo, poi dopo ha avuto vari guai per mi pare delle iniezioni, un suo di botulino o qualcosa del genere, sì, che aveva creato allergie, poi, anche di droga, poi aveva della cocaina in casa, che bisogna forse capire chi non ce l'ha. Nel mio caso manco io, non fumo manco le sigarette e odio tutte le dipendenze, le cose, però dico, nel mondo dello spettacolo, cioè, proprio lei, ne hanno fatto veramente un mostro, un disastro in prima pagina, colpa anche dei giornalisti, colpa degli invidiosi, insomma è caduta completamente in disgrazia. Adesso Banfi diceva in questa lettera aperta al Corriere giorni fa, è andato a trovarla e si è intenerito e si è commosso perché l'ha vista così invecchiata, ingrassata, depressa, completamente lasciatasi andare, insomma. Sì, io non condivido l'iter di questa cosa, cioè premetto che Lino Banfi, che io conosco, è un uomo di grande cuore, è un uomo di grande cuore, un uomo onesto, anche è un uomo di una certa per apertura. Bene, sì, e quindi ecco, quello che non capisco, perché pubblicizzare questa cosa, cioè la povera Antonelli, che è ridotta, se ho capito bene, molto ma molto sì. male, perché non fare la stessa cosa senza pubblicizzarla, senza far sì che tutta l'Italia sappia che, perché la legge Bacchelli esiste come tante leggi, cioè fate scattare questa legge che almeno... Ma tu dici, non avrebbe dovuto pubblicizzarla per non fare pubblicità a se stesso e far vedere no. quanto sono bravo, o per tenere un po' più nella privacy, nella riservatezza? Nella privacy, e per mettere in condizioni, infatti lei poi ha risposto dicendo io non voglio niente a nessuno, voglio solo essere dimenticata, eccetera. Probabilmente non avrebbe reagito così se la cosa fosse stata senza clamore, senza... E questo è, non, cioè con questo non voglio dare nessuna colpa a Lino Banfi, che ripeto è una persona per bene, è una persona sì. anzi che si è preoccupato di questo. E però io avrei agito in questo modo, là dove ci fosse stata la possibilità, ma credo che ci sia, voglio dire, la possibilità di iniziare una pratica senza bisogno di... Ma forse è anche un modo per dire, ehi, guardate tutti quanti, godiamo tanto sì. e ci divertiamo, ci piace, innalziamo ai massimi livelli una persona così, e poi dopo tutti i cannibali la scarnifichiamo, ce ne dimentichiamo, la buttiamo nella spazzatura. Forse diciamo è anche un po' una colpa collettiva, al di là che ci siano persone poi che non sono famose, che vivono le stesse condizioni. Però diciamo che lei è stata, tra virgolette, fruita un po' da tutti finché è stata sì. bella, finché è stata piacente, e poi un bel calcio nel sedere e tanti saluti. Però se qualcuno poi volesse continuare a parlare, c'è sempre il numero verde 800 24 00 24, le notizie ne sono un po' passate, diverse oggi. Tra l'altro vi ricordo, perché è un orgoglio personale, nazionale, poi è una donna, che Francesca Schiavone, la prima italiana arrivata in una finale di un torneo internazionale di tennis a Roland Garros di Parigi, dovrebbe iniziare questa finale alle 15, quindi appena finisce a meno che non vogliate ovviamente continuare ad ascoltare Radio 24, se no c'è appunto Francesca Schiavone, speriamo che ce la faccia. Ma anche se non ce la dovesse fare, il fatto che sia arrivata in finale mi sembra ricchigianco, una cosa grandiosa. Allora, dicevamo prima che c'era Luca da Viareggio che stava aspettando, grazie Luca della pazienza, eccoci qua. Pronto Luca? Perfetto, complimenti per la trasmissione. Grazie. La mia telefonata riguarda... Luca, ma lo pensi veramente un dazio che si paga quando si risponde al telefono, secondo te? Dire complimenti per la trasmissione? Lo troverei molto falso se lo dicessi non pensandolo. Bene, allora lo pensi. Posso... Ecco. Beh, posso scrivermi questa cosa? Luca lo pensa, va bene. Luca, prego. Allora, il fatto è questo. La mia è una critica a tutta una serie di generalizzazioni che purtroppo la stampa, e qui mi riferisco ai giornalisti, sì. fanno costantemente per mancanza assoluta di informazione. Ora, ad esempio, quando si parla dei terroristi islamici, chiaramente non si deve riferire questo all'Islam in generale. Quando si parla della situazione nell'Irlanda del Nord, non ci possiamo riferire ai cattolici in generale, no? Sì. Invece, per esempio, ma diciamo che la maggior parte della gente, sugli islamici meno, sui cattolici di più, ha i mezzi per avere delle idee chiare. Periodicamente riappare la massoneria e viene fuori, in questo caso è venuta fuori per i dissapori tra alcuni assessori appartenenti al PD. All'interno del PD, sì, in questi giorni, no? Ecco. Allora, si è riparlato per l'ennesima volta di massoneria senza fare assolutamente niente per dare alla gente un'idea di cosa sia e di come funzioni, e soprattutto del fatto che in Italia ci sono quattro massonerie, di cui due molto grosse, o meglio, una molto grossa, una più piccola, che sono completamente diverse, strutturate secondo, diciamo, un'architettura che si assomiglia, ma sfruttata e utilizzata in maniera totalmente diversa, con finalità opposte e modo di essere totalmente diverso. Questo in Italia, praticamente, a parte i massoni, una parte dei massoni di una delle due, non lo sa nessuno. È un po' contorto, Luca, questo ragionamento, specialmente per chi magari non mastica di queste cose, no? Mi sbaglio? Cioè, mi spiego meglio allora. Ogni volta che viene tirata fuori la massoneria, diciamo, scusa Luca, spieghiamo un po' l'antefatto, no? In questi giorni all'interno del PD alcuni cattolici capeggiati da Beppe Fioroni hanno detto, abbiamo visto una foto scattata, mi pare, all'assessore comunale del PD di Scarlino, che è un paese della Toscana, insieme ad alcuni massoni a volto coperto. Vogliamo sapere se questa è una cosa che... E poi c'è un precedente anche con un assessore comunale di Ancona. Vogliamo sapere se dentro il PD ci sono o non ci sono, altrimenti noi ce ne andiamo. Mi pare che fosse un po' questo l'antefatto a cui ti riferisci, Luca. Sì. Chiaramente si è parlato di un uovo di massoneria. Ora, il fatto è questo. Esistono, ripeto, due massonerie. Una, allora, la massoneria è strutturata su 3 gradi e poi 30 gradi successivi. I primi 3 gradi... Una delle massonerie, la più grossa italiana, praticamente si esaurisce al 3° grado e svolge la sua funzione. È la massoneria che a suo tempo produsse la P2, eccetera, eccetera. Quella massoneria lì ha un'enorme attività politica e economica. È quella di terzo molto grado, spesso, fino al 3° grado questa? Sì. Sì. Molto spesso in senso negativo. Nel senso che affari e intrallazzi all'interno di essa sono all'ordine del giorno, tant'è che varia gente che vi è entrata pensando in qualcosa di diverso, poi se ne scappa fuori dicendo che una roba di quel tipo lì non se l'aspettava, di andare in un circolo per intrallazzi e interessi e affari nemmeno tanto puliti, non l'avrebbe mai creduto. Ne esiste un'altra invece, sì, che è quella che, oltre ai 3 gradi che hanno un'importanza molto più limitata, segue più che altro l'iter sugli altri 30. Qual è la differenza? Che quell'altra è quello che dovrebbe essere la massoneria, un'organizzazione filosofica, teosofica e soprattutto un'organizzazione iniziatica, che non ha praticamente rapporto con questi intrallazzi. Né con la politica, né con l'economia, né con la religione. Luca, e tu sei un massone teosofico e filosofico, per caso? Sì. Ah, ecco. No, è venuto un po' di sospetto. A me sentire questi discorsi. Ad esempio, la P2 era la naturale evoluzione di quel tipo di massoneria. Quella che va ai primi 3 gradi. Luca, no, in parte, diciamo, è chiaro questo ragionamento. Tu dici, a volte si usano dei termini o delle categorie un po' semplificando, non spiegando veramente alle persone, alla gente di cosa si tratta, e quindi ci sono dei fraintendimenti, si fa passare un significato per un altro, capito? Anche se poi il discorso diventa troppo complicato. Però ho capito la distinzione che tu volevi fare, Luca, ti ringrazio. 800 24 0024, prima di sentire Mario da Roma, Ricky Gianco, che ricordo ha pubblicato l'album di Santa Ragione, lui coi guantoni e la chitarra, per dire che insomma qui non si risparmia né di qua né di là, su questa cosa di elevare l'età pensionabile, l'ultimatum che ha dato l'Unione Europea all'Italia, no? Di portare anche le donne del pubblico impiego ai 65 anni per la pensione, che ne pensi? Non posso far altro che sottolineare quello che tu hai detto prima. La marziana prima da Marte. Sì, no, non esiste proprio, specialmente in Italia, perché poi all'estero magari qualche posto in più esiste per le donne, sia dirigenziale che nei governi, eccetera, eccetera. Qui in Italia purtroppo no, molto meno. Ed è assurdo che le donne che non hanno mai raggiunto la parità, perché sono tutte storie, adesso la raggiungono per l'aspetto più infelice della vicenda, capito? Diciamo, la fregatura è sempre in agguato, ecco. Quindi sì, devono passare altri 5 anni non solo di lavoro in casa così, ma ancora anche fuori casa. No, è una cosa che qui mi viene sempre in mente Bartali quando diceva gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare. Bartali, che perdita con Bartali. Mario da Roma, prima di sentire se ci sono delle novità per chi sta viaggiando. Mario, ci sei? Pronto? Eccoci qua. Buongiorno a te, Mario. Buongiorno. Innanzitutto grazie dell'opportunità che mi date sempre. Grazie a te che chiami. E volevo dire una cosa, volevo parlare del caso di Laura Antonelli legato naturalmente alla tossicodipendenza o ai problemi di droga in genere. Io faccio il volontario in carcere e sì. Diciamo così, e il contesto del consumo di droghe e dello spaccio di droghe è uno dei motivi per cui, diciamo così, adesso le persone sono in carcere. Come dato statistico, su 67.000 detenuti, 27.000 sono legate ai reati di droga, per cui diciamo più di un terzo. Ma l'Antonelli non mi pare che rientrasse in questa categoria comunque. No, però il problema è questo, il problema è questo, è che purtroppo sostanzialmente il problema della tossicodipendenza è visto da questo governo, ma anche da gran parte dell'opposizione. Per me la tossicodipendenza, i problemi di droga in genere sono un problema sociale, diciamo una grossa piaga sociale, che però adesso con la legge detta Fini-Giovanardi, che equipara il consumo allo spaccio, praticamente viene equiparato il consumatore allo spacciatore senza distinzione, e per me è un voler risolvere un problema sociale con il codice penale. Questa è una mia idea di cui mi assumo assolutamente la responsabilità. Naturalmente, come dicevate voi, Laura Antonelli è stata una persona famosissima, per cui anche questo comporta il fatto di una certa, diciamo così, voyeurismo degli italiani in genere nei confronti di persone VIP, e anche da parte degli organi di stampa, dei media più che altro, di portare avanti queste notizie solo ed esclusivamente, diciamo così, per riempire forse qualche minuto in più di telegiornale o di... No, diciamo, Mario, che insomma a suo danno è stata fatta un po' una campagna denigratoria per tanto tempo, e adesso diciamo la notizia che la riportava la ribalta era questa lettera aperta di Lino Banfi, il ministro Bondi, che ha risposto positivamente, però lei poi che ha detto insomma si è un po' più ritirata ancora diciamo nella sua disperazione. Prima di proseguire con Pietro da Milano, Anton Giulio dalla provincia di Cagliari, io visto che abbiamo parlato appunto di ultimatum dell'Unione Europea affinché anche l'Italia equipari l'età pensionabile delle donne, allora chiamerei subito in causa la nostra esperta Valeria Della Valle, linguista della Sapienza di Roma. Cara Valeria, Ultimatum, cioè andato l'ultimatum. Ultimatum. Mi mette sempre un po' di ansia questo termine, ultimatum. Ultimatum sì, è una parola un po' ansiogena, ma vediamo di farla invece diventare meno fonte di ansia per tutti noi. Beh, intanto è una parola latina, no? La riconosciamo tutti, però la cosa singolare è che non è una parola latina antica, è una parola, come spesso succede, latina di creazione moderna. Ha cominciato a diffondersi alla fine del 600. E poi dal 700 si è diffusa non solo in Italia, ma in Inghilterra, in Francia e poi in tutta Europa, e attraverso il mondo della diplomazia, perché il significato originario è proprio quello nel diritto internazionale, indica l'insieme delle condizioni di un accordo respinte le quali poi si minaccia di rompere i negoziati oppure, speriamo di no, di ricorrere alla forza. E allora ecco che ancora una volta intanto è interessante vedere il fatto che una parola, ecco, una parola latina nata alla fine del 600 poi si è diffusa non solo in tutta Europa ma in tutto il mondo, è una parola che è come se non avesse più, no, una patria, una parola frontiera internazionale. Ecco. E poi l'altra cosa interessante è che il significato è andato estendendosi, no, perché appunto indica una sorta di proposta irrevocabile, da accettare o rifiutare senza possibilità di patteggiamento. E vedi che è ansiogena allora, scusa. È ansiogena, però ecco, come sempre facciamola diventare un po' meno ansiogena. Per fortuna le parole hanno questa grande capacità, no? La parola può essere anche usata in senso scherzoso, no? Quante volte diciamo, ma insomma gli ha dato l'ultimatum, o smette di fumare o lo lascia, oppure altre che cose. Che non è male genere. Come ultimatum. Non è male, ma... ecco, sapevo che ti sarebbe, piaciuta. L'ho dato diverse volte, ecco, sì. Che la parola che nasce serissima nel mondo della diplomazia poi ha questa capacità, è elastica e la possiamo usare anche scherzando, per fortuna, aggiungo. Grazie Valeria Della Valle, grazie, che ci aggiunge sempre un sorriso anche nelle cose, diciamo, più così, più ansiose, più angoscianti. Ultimatum a chi non smette di fumare, mi sembra una cosa seria. E prima di sentire il colonnello Giuliacci, che forse siamo riusciti, sì, Carmelo Lauricella, la parte tecnica mi dice di sì e conferma anche Giorgio De Luca, che sta raccogliendo le vostre telefonate e sta anche telefonando a sua volta. E, c'è Anton Giulio dalla provincia di Cagliari, in Sardegna c'è bel tempo, Anton Giulio? Sì, oggi salve a tutti quanti. Ciao, complimenti per la trasmissione, veri, perché io la seguo moltissimo. Grazie. Quanto non ho neanche la TV, quindi ho per scelta. Quindi per me la vostra radio è importante. Ti farò la prova con la macchina della verità, se passo da quelle parti. No, è proprio così. Bene, Anton Giulio. Qual è la tua notizia? Sì. La giornata è bellissima. Bene. Quindi già questa è una bella notizia. Allora, io ho chiamato per quella questione delle due navi, perché in effetti una è quella... Quella turca che era stata... E l'altra è quella irlandese. Irlandese di queste ore. Israele cattura la Rachel Corrie a bordaggio senza spari, è stato nelle ultime ore. A bordaggio senza spari, ma torniamo sempre al solito discorso. Cioè, gli israeliani hanno abbordato entrambe le navi di due nazionalità diverse, tra l'altro non ostili, in acque internazionali. Ora, il problema è, secondo me, di una gravità incredibile. A questo punto chiunque potrebbe, con una scusa per l'altra... Tra l'altro non sono neanche delegati da qualcuno, non è che per esempio hanno una delega dell'ONU per poter fare operazioni di quel tipo, cioè, loro hanno deciso, cioè quelle operazioni che loro hanno fatto, al di là degli spari, dei morti che ci sono stati, perché non si capisce chi risarcirà questa gente, lo potevano fare nelle acque nazionali, cioè in acque internazionali, sì, non so se avete visto i film in cui si dice no, posso salire a bordo, quando dice abbiamo il permesso di salire a bordo. Cioè loro non hanno chiesto nessun permesso, sono saliti e hanno deciso di... Tra l'altro questi irlandesi l'hanno, da quello che ho capito io, hanno deciso di spostare in un porto un porto israeliano. Allora il problema è che con quale diritto loro prendono? Quello è, siamo a livello quasi di sequestro di persona, cioè una nave che ha una bandiera e della nazionalità. Come ci si può comportare così? Capisco, Anton Giulio, tu dici, ma anche l'ONU insomma ha espresso la sua condanna, ha detto che bisogna levare l'embargo alla Striscia di Gaza, però mi sembra che Ricky Gianco volesse dire... No, voglio solo dire che in altri momenti storici, in altri periodi, una cosa del genere avrebbe persino potuto far scattare una guerra. Cioè, perché quello che è successo è veramente impressionante. Questo ascoltatore, a parte che è sardo, io mi chiamo Sanna, il mio vero cognome. Ah. Per cui sei una... di quelle parti lì. Sì. È una cosa impressionante, però è strano che abbiano fatto una cosa del genere, perché è assolutamente impopolare. Quasi ci fosse all'interno del paese una corrente probabilmente militare. Ma diciamo che c'è stata una svolta un po' conservatrice col nuovo governo, sì, così. Ma così mi sembra. Certo, però falli arrivare in acque nazionali, perché attaccarli in acque che abbiano deplorato anche gli Stati Uniti, sì, che pure da sempre sostengono. Sì, è veramente una cosa gravissima. Sì, e infatti questa notizia poi si ripercuote man mano in tutti i giorni di questa settimana, è sempre stata, diciamo, ai primi posti, sulle prime pagine, effettivamente. Poi coi morti, una ventina ufficialmente, ma ufficiosamente, anzi, ma forse di più con la prima nave. Poveracci. Che batteva bandiera turca. Insomma, è vero che Israele ha tutto il diritto di difendersi con la storia che ha, però neanche superare il limite, diciamo. Grazie Anton Giulio. Adesso forse siamo riusciti, mi sembra che Giorgio De Luca l'ha recuperato, riconoscete già il suo passo da questo ritmo, e il colonnello Giuliacci, che diciamo che in quei 33 secondi, non essendosi fatto trovare prima, riuscirà a dirci molto sinteticamente il tempo che farà nei prossimi giorni. È vero Mario Giuliacci, colonnello? Ciao Roberto, sarò velocissimo, a tempo veloce, allora perché è veloce, no, perché sarà bello, è iniziato un periodo di bel tempo di 7-8 giorni, godeteveli, perché periodi perché? Così lunghi, insomma, cominciano a essere un'eccezione, no? Quindi tempo bello e soleggiato su tutta l'Italia, a parte qualche temporalino sulle Alpi, vicine zone di pianura, questo parlo per tutta la prossima settimana. Un po' caldo oggi e domani al nord, nel senso che sfioreremo 30 gradi, ma si fa per modo di dire, ma non c'è rosa senza spine, perché da giovedì questa ne ho vista una senza spine, sì. Nordafricana porterà un'ondata di caldo breve ma intensa da giovedì prossimo, soprattutto al centro-sud, quindi avvisati. Era un po' con l'Anello Giuliaci, tempo di sventolarsi, basta queste piogge, questo freddo, le calzine per andare a dormire. Grazie con l'Anello Giuliaci, una buona notizia, anche se qualcuno il caldo può non piacere. E mentre sto chiudendo, caro Ricky Gianco, abbiamo proprio 2 secondi, mi dice di una battuta, proprio in chiusura, che ragionamento ti viene proprio in questi ultimi secondi? Ma a proposito di quello che abbiamo detto? Di tutto quello che abbiamo detto. Beh, oddio, che gli uomini stanno facendo di tutto per distruggere questo mondo, in tutti i sensi. Nel piccolo e nel grande, sì, diciamo così. Non solo l'Italia, ma anche proprio il mondo in generale. Terribile. Grazie Ricky Gianco, grazie a te. Tutto. Roberta Giordano, auguro a voi, dato ci sentiamo sabato prossimo, auguro a voi come sempre sereni orizzonti a tutti.